Bandera, quando il sole va per il cattivo, siamo dei paride, chiaramente tre azzurri. Cosa la camera sta bene lì, che mi va del posto qua, solo che è perché di te lì, che mi va per niente a mattina. Non come vedi che lei, la mobilità non si manca,